Alle luci dell'alba il cannone rombava da dietro la collina. Da sopra il masso il capitano guardava lo sciogliersi della brina. Io rimasi seduto in disparte e guardavo i compagni lustrare. I miei amici sono morti, o forse sono io che non riesco a passare più il fiume. Rimasi da solo nel buio del bosco, a battaglia finita da ore. Ossa su ossa e sangue su sangue e quel fastidioso odore. Così corsi più veloce del vento e nel vento mi senti chiamare. La bandiera è perduta, la marcia è finita, torna a casa oh mio bel disertore. Se che la vite la sua casa è rovina, un vestito esteso tra i rami, il cielo è vivo di stelle cadenti, lampi argento accendono il mare. La sua bocca fu così stolta nel versare amore rancore. Il capitano è caduto, la battaglia è finita, torna a casa mio splendido amore. Non mi dà pena nulla se non il tempo, che so più tornerà. I balli mancati, le frasi perdute, l'assoluta oscurità. Il maestro lusingò i tuoi occhi per rubarti una notte d'amore. Ogni rovore in fiamme, la tua anima anche, ti nascondi alla luce del sole. La nave in partenza, le vele sono gonfie, i muscoli sono in tensione. Resti in vedetta mentre il porto scompare con il nome scritto sul cuore. Questa notte ci sarà mare grosso e prima che si possa svegliare prenderò ogni cosa gettandola in acqua cantando quella vecchia canzone. Mille anni da casa, lontano e perduto, senza un posto dove andare. Solferina è presa, ma io ero distratto, le mie mani sono prive di rughe. Una luna di marmo splende, si riflette nelle acque del fiume. Dai ricchi mercanti non mi fare trovare, allontana da me questa fine. Dai ricchi mercanti non mi fare trovare, allontana da me questa fine. Dai ricchi mercanti non mi fare trovare, allontana da me questa fine.